è tempo suo, siamo già arrivati, cominciamo a coprirci bene. A posto io pure, eh? E a posto io. Oh, è per quello che ci sta facendo sentire. Un po' di freschezza c'è oggi, stasera sta rinfrescando ancora. Siamo in casa, Tomì. A bassa quota pure, mi neve a bassa quota in Sardegna. Ma ne cacchi per un uso in mezzo, mio marito. A sciare andavo, Tomì. Tra tardi cosa farà franco del 42, so. Vedi, tu a palle da Benetto, ma per il magazzino. Lo fuccia dei covoli e tirano un sacco davanti. Va bene, anzi sì. La palla si è detto più bene, inimi, che a piazza di Vius, compreso. Invece se farà ulti più restrinto, più comodo se farà su letto. Va bene. Poi il tempo suo, per cui lasciamolo fare. È quella faccenda. Noi ci mettiamo in caldo e ci tira avanti. Infatti, no, fino a pensare io come cazzo, non lo sto lamentare. Si sta bene, io mai, si sta bene. Non dare sa, a dire se cantesse su 9-3-9. Ha vinto Gimbe Grado, se sì. Ha vinto Gimbe e ci ha detto cantesse. Aspetta, Tu la assumi, sto cantando lì. Interrompo, sì, qui ti batto il mezzo. Non vada, così non canta fritto, non canta. Si dice bene, però tu, guarda qui cambia. L'unico massimo del mercoledì ancora non ha che devi uso, fino a settimana, e dura fino a mezzo c'è macolata. Bella, più bella è andare a lì. Infatti, sei importante che abbiamo trovato io e Maria. Grazie Marco, non li riusciamo a dimandicare, che non diamo, non diamo giù, così che non li riusciamo come. Va bene, mi. Se fa qualche pezzo lo vogliamo inserirlo. Bello, la sintesi uomo, si è abbogato sa legge che è fatta lì, se vedi sa cadena, sa bordo, sa macchina. Dopo la P2, uno viene a battere chi ma macchina, se deve, si deve attrezzare anche, battere chi ma cadena, si sa, sa macchina, boh. Sa cadena è obbligatoria, dai tu non arrivi con caio, Mari. Ma è obbligato così peggio lavoro. No, bisogna curta sa, curta cinghia là, se ascia, sa, de plastica. Chi usa la sempreana, lì c'è in Romania la sempreana, cosa, mio mare. Gattoni, ma il tuo burro che la fa sciminare come? Se non la giuca a bordo, mi pare che vado 80 euro, su 20 euro di contravenzione. Curta lì ha chiesto un'altra cosa, pure, come lo camionista non conosce tra niuno. Come sa gitta, finiamo vende, come un cucciare di pezzo appunto, devo immaginare, come ordine tutto. Roba è diventato un masello, io Mario, è diventato un masello, chissà che cosa ne vuoi ragazzo, e chi è vinto ragazzo, ne vuoi qualche cosa, e prezza da qualche coppa e Spirito Santo, guarda. Bisogna si unire e andare a recuperare il sciumunto là, più intero un cassettone ai gusso. Se devi forse tu fare, se mai hai pagato su viaggio, se mai hai andato 5 minuti da galera, vi andate le società. Ehi no, che si la busa, in Libia si può che fino. Guai, fatto la capire, La cassassa dai apposti, ce l'hai una caricata a piombo subito. Ah, sai che c'è il corriere di riserva, la risa sta lasciando la crevata, che ha fatto una vecchia sta crevata. Lasciami fare, io. Come è andato che a si brigare di questa cosa già a bucare travaglio. E ha regato tutto quanto su due amici battuti, che è andato fino a mezzo delle notte su delle giornate. girare in guardia la vela. Ho calivato che sono io. Comunque, ma ti ha avuto ancora da bene o no? No, ancora nulla. Io mi la fatta che la pensata su due di novembre. Ma su due di questo mese a fare qualche cosa, là. Tu prego. Questo è il nostro punto, la cosa. Beh, Guido, se ci ha facciato, arrivo a travagliare. Ui, e devo sapere se non è andata, ragazza, mi ha preso la macchina parcheggiata a casa, che sono in... sono in ordine a travagliare, quindi una macchina e una moto, ma io. Che sono in ordine a travagliare, che sono in chiamare. Magari ho fatto un travaglio minore, però sono stato travagliare. Ma che mi piccia prima un gatto e stai con tu fuori, quello che si piccia la uccia poi non sono ancora travagliente. Don Maria dico di Gianaro, il suo tempo racconta da tutto, il suo tempo racconta da e consala, compreso? Io auguro che andrà bene, che volte si andano male che l'hanno in culo. E allora, paghe le due ragazze. Ah, chicca. Oh, io... Ma... Carieri, sava che è sicuro. Sì. Poi dove i canno che mi hanno fatto, sei sempre sicuro quanto lo casaro, io marica, sì, ma... Mi ho fatto la paga. Allora, che sta attivo, ma non si faccia i cani, che si sta attivo. Ma mi la pari so cani, lì. Mi la pari so cani, a tu, Tony. Io non me ne sento io che mi paghiato mi fregge su genere. Capito, finalmente 4 mi vanno a fare, mi ne dai io sempre. A te è un attimo che mandavo le pensioni dai 9, se vuoi, sono un attimo di canare pensione, me invece. Ma è giusto, io mi compreso, guarda. È giusto. A volte finalmente sono sotto, non me l'hanno dato, non è che sono protetto, non è che non si deve licenziare, non è che deve lasciare la pensione. E Dio è un attimo, ha ricalato una come che hanno detto. E fa, mia, fa che mi darà mai di che mi l'avvio, non è, non sapevo mai cosa prega. A mia, che mi darà, tu sai io, non tu che bisogno, mi l'avvio. Lo faccio su cavu cavolo gustato gappa, non pensa che lei ha poi bisogno di commentarti e tu hai bisogno di commentare mia. Una cosa di nada che male mi fa, finito, li sono finito. Se per mai va bene chi fa che bisogno di qualche cosa. Fanno gli abbi l'unaria, fanno gli abbi la canto lungo. Forse che non le vita entro le domo, cazzo li mette passare per qualcosa di ora pure. Non mi sei buono a fare cosa che hai tu e colonino, non mi sei buono, io vuole fare, ma tu non mi sei buono. Hai questo che mi hai parlato su un tenere su baracchino, prego un tabigliere e te ne via a tende. E chi deve ringraziare la sabbia dai babbo, se no non sono tu, io ne vedo in terra, io mari. E hai pensato di malino che è isso? Ho pensato male adesso, mi hanno più evocato con buona condotta. Poi mi dentro dopo, una roba che mi dà credente, e mi dice, come si fa che non mi ero... mi sono difeso così in acqua. Arma bianca, io mai non ti mai venuto. Allora, non si sa bene fuori a Torino, c'è acqua da bronzo, si non sa bronzo mai. Io da bronzo, da quadretto, sì. Oh, io... beh... che ti fare questa radio, io mai, che ho cambiato il microfono. Torino, non sta fra tutta, che che gli andrà bene. Come c'hai che lo senti che sia veramente? Ma devo pensare che a te che la fida pure di noi, però, in domo. Allora, sì. Allora, ti pare che ma... ma questo baracchino cammina bene, cammina bene, ma... Oh, gli lascio il microfono uno, Ma poi se tu sei pittura della tavola, sta a fare niente. Beh, li ha dato lì. Io quando non ero nulla da rinnare che le cose ce ne sono tutto d'occhio. Compreso? No, ma ce ne è bella, non vado a rinnare nulla, compreso? Io ho preso un altro microfono che mi hanno dato. E boh, non dico se sta niente male, se è bella, se è chiara, se è barattolosa, cane. No, sta qua una che non ha che andare bene. Abbia abilito, non ti ha dato sul microfono. Io non ho che mi sarei fatta io da quando figli, in ballente, se ci è passato, non si deve imparare, in uri, non si migliaia, non si telefono, non si telefonia in macchina. Non va po... non va penteso più. Oh, da 30 ore io per un'ora a vita. Tu sei chiamato ad essere una bomba, là. Questo, io voglio cucinare a voi. Ah, sapete che... è quello che ha ci avuto si pugna, no? L'ha ci avuto si pugna, no? Questa. Sono da lei a posto. C'è stata una cappa, c'era per 1200 uomini, mio marito. Il telefono antico che mi ha dato, uno è Sasicchi. Mi ha dato. Se mi dai a posto, più che una radio, proprio bella chiara, no? Tu sei sicuro prima, devo quello che mi sono ricordato da poco non credevo una cosa. Sì, ho subito su DX, su DXCS, questa presidenza io Marino. Sapremo chi me l'ha dato, un'ottica Bartolini e l'hai pagato, 120 mila franco all'epoca in Milano, in Merchioni. E l'ha portato un microfono amplificato del Sainte che su SM300 modificato. E ho fatto cambio. Capite? SM300 ha provato che andai a lei o non andai a bene. Al suo presidente. L'ha proposto questo GS3 del suo presidente. Cazzo, l'amore qui. Solo che mi baccia i dati. Vuole che lo dare per amplificare. E tanto l'ha proposto sa, un questa capsula del 1200 ohmo in ceramica che mi hai andato uno sa Sippi, mi ne hai dato due sa Saturno la pappi da virus non lì che è piscita Oh lei ha appo questa capsula del pure più 3 manuale appo non è tanto manuale però funziona ancora certo ma questo lombino pare questa capsula. C'è buona, ma non si può porre in attività con questa capsula, è adattata. Calcolo vittorio sigaretta, che però deve essere ceramica, compreso, c'è autodinamica, io Marì, è in ceramica questa capsula, che la conosco, la pulita. Infatti, io questo microfono, da voi me lo fa in terra e si può dire, faccia tutto l'altro da calcare, mi rifacciava. E per cui l'avevo tanto sciorattata, ma ogni tanto che sia, mi si vede che al soffio, tanto la può demolire e che fai ancora sul circuito muro del paese. E se lo chiede da tradire non sono riuscito a acciappare. Se no magari un po' più volentieri anche altro microfono usare questo circuito, capito? Ma magari qualche microfono amplificato, io Mari. Beh, infatti. Però non ha fatto, è capace magari, non hanno un logico, è capace la ciappo. Che ha rimontato e lei ha remunito. Sa capsula, lei ha provato un altro microfono e l'ha facciata. Poi il circuito non me lo metto nella proposta. E ora non mi hanno consentito solo dare su sala 24, io Marino, sa Milan. Sala, non me l'ha pagato, l'ha pagato 120 mila da francos. Cazzo lo provo, cazzo andrai a bene su Miuga. Cosa la batteria, io Marino, è passato ricaricata. Cazzo sostiene batteria per un treno. Leo è l'attacco all'alimentazione di questa maniera. Come sta che stava portando, cazzo, c'è su fumo. La proposta a un'area dentro ogni cattura e appunto sono le dotate di Danua che vediamo dell'ottata la ci comporta sala 24. A Paolo se interessa, a Paolo la poteva fare un po' di tempo fa, che me. A Paolo non lo Paolo ma che impreato. Impreato a Paolo la ossa e poi perché Paolo non anda bene su la sala di Umina. La che tanto non è che era, però a minoranza mezza franco la parte chiusa all'ente. Cazzo, basta di nuovo, io ho maricato. Ti do il microfono. Ma che batteria non dà? Passi da Bitanova, la che non arriva a Bitanova ti chiamo, poi chiamami. Interesse la tua, te la tanto la penso io. Poi ha cambiato il microfono, che cazzo, che noi sia che mi... fottito, manna. Hai intenso? Come lo canno vedo, se ne è sapizzato, chi c'ha dente? Eh? Ma lo toccato. E che ne faccio io? non disturbala, per cui a tutti dimmela. Ho preso. Provente, ricordate, poi io non la porto la batteria, io Mario, io non sacramento andai io. Mi sono sbrigato. Ma non mi sono mai affettato a fare nulla. Sempre roba nuova. E basta, ma come te binacchi c'era sempre cambiene, fattelle, a me era mai di agri, dice che non l'ha fatto mai, capito? È inutile, perché a chi li viene a fare questa cosa, a me era mai di agri. Io vuole di diano un po'. Ah, è andata a bere cane, Mattis. Ok, nel senso che lei era molto... Ah, voglia, una cadonata, Voglio no, se mi hanno regalato una Gran Prix, un marinoro ancora dentro di scatola. Uno dei de Boroifa, che vi camionista con Taura. E l'ha data a un ispettore di polizia che mi faceva servizio in cui una pasanta, che secondo Chiana. Ebbene, questo poliziotto era che tonina che Salvatore era che niente l'ha data. Vai, non c'è. La viatta di Amarico, non sa se ne piaceva una sua bella balla, cara. Fatto sapello il maracchino, se l'ha comprato non mi disse. Ma che tanto non è che era? Ha messo ancora in giudicato, l'ha fatto nuova. Ma che impreata, poi dammi 70 che viene da Franco, l'ha fatto il casellente, certo. Sa che siamo arrivati a poi, il maracchino 70 che viene da Franco. E mi ha comprato il romanzo, qua adesso. Vabbè. A me pure mi pare Samantha, ma non mi faccio sentire il nome di Viagra, non mi sono mai Viagra. Infatti, la vedi al breco Manuele, due a te una Manuele, ma se tu mi sa che è a provare ma no, non mi Viagra del manco, non lo so. No, buscia matto per tutto altro, un'altra cosa, capito? No, adesso è buona, ma non so, non mi piace da me, ecco, sicché non ho... Sappo, c'è pesata, sicché sei da matto, ma no... È inutile, troppo in gabbia, e poi è robusta meta, capito? Lo dice meta sui tempiri, mentre questa sattra è troppo debole, capito? Ma io Mario mi sono abbizzato, ah, come se guadagno non ha più da Samantha qua. Samantha vanno a 7 decibel di guadagno, questo hanno a 9 decibel di guadagno. A quanto da come se potenza i fatti, sono 4 mesi che mi sono fatti a quanto. E Samantha vanno 2 mesi chimbe io Mario, c'è da calcolare questo. Se manda bene, forse apparecchio manda bene me, non mi deve partire, non mi danno nulla, no. Io bene così, mi vuole stazionare, ti l'ha che non ho pintato, quindi che si tocca. Che deuso di questa potenza? Sorry. Che deuso di questa potenza? Io non mi sono mai viato a potenziare, no, assolutamente, no. Basta se ci sarà di su, basta, no. E intanto è un mantenne che ha fatto pizza a schio, e te ne fa che sei, te ne fai proprio nulla, Tony. Ah, vabbè, sono matto, vai a metà troppo, cosa potenza che sapevo, capito? Vabbè, becco tu magari che gli piace da usare la potenza, se arrogliavo il tuo discorso, ma a me non mi piace, per cui mi abbassa tutta, capito? Ah, ma va bene, non è che ti ho le cariche questa potenza, no, io, Mari, sì, capito? Bene, una volta mi hanno prestato un amplificatore, ragazzi, e ho giocato una polvere su, ragazzi, vedi... Arriva uno fiacco questa qua. E che io ha pilotato con un altro lineare che tu fa. E via io sono 30. E fiaiamente a Mario Chiudino, e quindi Caraioca. Cioè io sono Kimbe via. E la prima da Mario Chiudino. E io sono 30 per vidi El Dorado. E un Mario che ha ancarato l'appo, l'ha pigerrato, cazzo. Passava su Kimbe, cazzo. Poi non ha chiamato per sé, a casa, sì. In tot baranta canale Gian Mario non mi intendia, non si intendia. A mia che non mi intende, non mi interessa, io che le fa, vuol dire che la chi ha la gente, magari mi vicino, non mi intendere. chi non ha rivolto un sale, che te ne frega? Non mi interessa più, no. Oh. Il passato mi tiene in tasca, e voi a foro non mi arrivo. Non mi interessa, vedi che mi arrivo su salto il Torino. E infatti questo mi ha dato un attimo, non le dice, non hanno ammasso un attimo, questa è la corrente di Modona che non bisogna fare. E lei ha Milli, la proposta, come ti chiedi a baciare la salute? Tanto ha la proposta a Mille Chimbe, ah, ti chiedi a Mille Chimbe se c'è stato il contatore. No. Mese se Sirio, ciao, mi va a perfetto, Tony. Cazzo, ma con il palmo lungo e buono, questa cosa consuma troppo. Faccia usare a chi lo vuole usare, noi non lo vogliamo usare, Tony. Da basta a chi mi ha fatto, già non sentiamo insomma a stessi. L'atto di ciaccato. L'acqua telefonata, pada che in zona passa, appunato e ti chiedo di casa. È passato perché l'ha caricato, l'ha capito e poi già è buono però appunato. C'è un rubinetto serrato per fare la rabbia, c'è bene il frigorifero pure. Vabbè, a proposito, c'è per la vana che mi usa cose che non fa, che è coso, che si narra, a Barracuda. No, non ho pinto a nino io mai, non ho pinto a nino, e no, mai c'è di cose che, a me no, non so, se pensare il brano, se bancarella, facendo pieghetta, non mi interessa di mai, no. Uno passa da noi che deve si piegare l'un da due, no? Tony, stavo a capire un po' si può sviluppare questa frequenza, capito? E più magari alcuno dire come ti funziona, come ti funziona, può darci pure che si sia la sentire qualcuno, capito? A voi se lo credo nuovo magari sarà alla fare con Fusaro, con Sagli BC, capito? È una cosa del genere. Allora, non è che deve essere. Guarda, intanto può andare magari a fare il numero uno, vai. Vabbè, non ho pensato a nessuno, non sento a nessuno. Che lui era un fagare, io sono contento, non è che mi lascia del vaglio dai mano, no? No, dai, sto credendo tanta rabbia, poi da sicuro c'è cosa andrà bene. Io diciamo infatti che andrebbe questa cosa da voi, come c'è che andrà, io non da per i tempi se andare qui non posso andare, capito? Ma poi tu vai che tempo l'altra boccia a casa, cuccia con l'altro, no, ormai non più lì, magari che è più giovane già lo puoi fare, capito? Ma guarda Tony, vabbè. Sorvoliamo. E tanto, ma come ti andrebbe detto lì? Da dietro sono andato. E ne ha passato un occhio, uno di chi manca l'ho pagato, ma. Da tiro filo la sa pagato uno di chi manca. Ci andrà bene. Pulito, manca appena la terra io qui, pronta che dovettare i. Ci va detto. Cavo di lei contro fatti, io marino. Guarda che vedo un periodo, in questo periodo qui, no? Questo mese di ottobre. Lei da Santona mi pare che qui da 90 centesimo su chilo. Anzi, il mercato mi si è menato. E ci ha fatto questo musumare. E se non c'è il mercato, se ne ha comprato su manco una regina ai chilo, che ormai. L'alleato è la imbruttata in terra. Tutto quanto, era proprio una vascetta che di cui la trimpizzava era rimbruttata a terra, tutto quanto, comunque tutto quanto. E era posto i cubi olio rassisa in campo e mela. Invece con la domenica a travagliare e l'abito. La mia cantina che s'antunna, anche me, pure da che l'abito a casa. Io fui maturo, io mare miei, vedi che devo sumare, invece picchia a fare, secondo me di ocre a canto di bottonarre. cantone come storeggio via della madura fino a minuto 8 miciata via la cantante una canno euro carta una bella poi viene un chilo la un chilo me la prendi me la pagata mi telefono da e mi ha fatto abitere e da chi l'ha pulita adesso ha dubbioso ma che parte anche una bella comprate la paura di quella che campo è mela cazzo la cotta ma quando lo sento una ma questa è sempre una conservata ma che sono andato una conservata e cazzo però non in Sicilia non in Sicilia ma questa è sempre una conservata cosa fai c'è imbruttata in terra perché una bella che la imbruttata in terra potete fare convinto che a questa l'ha pagata per 90 centesimi su chilo e anche se la bella 90 a 9 euro il marino non l'hanno lasciato in mano tutta campa la vendita e fino a una comporata cazzo è città mercato e a parte il signorato e già si conosce aiuto saltuna coltivata saltuna scherzo se batti che si conosce da si conosce da un tanto mio ma tu alla sedenza esperta l'ha imbruttata in terra e poi l'ha posto a chiodale dei cacchiratto dei odale dei mamarai da volare che vedi su altri compreso è molto male e la decido a fare già io mai la decido a fare tutta campa la chiela vendita a 9 euro lì se la pagano 90 centesimi su chilo qua a me la sua lanza io lo credo che la imbri che non fa come tenuta che non fa e pur mandichelli si conosce che come se la posi in bocca sul sapore battezzi che la pizza a chi non è chissà capito? E infatti la sa corriata lei c'è qua e poi mi sono capito che c'è la terra e qualche cosa e mamarai da in me una ragazza è di Asia e perché mi dico tanto una comporata c'è una cazzata che lui dove è paura non lo capisce questo mi sa che è una a chi no e la ciappare la ricucci subito e l'etano vedi un'altra ossa entrando dai tappare via e abito uso quasi che ha fatto cascetta per odare che ho mani di yoga si sveglia la notte amica ha tappato bella come in pizzara ria bella la buia io la baida io poco c'è una gioca nostra raga che si gioca di Albania raga oh di Albania è mia la baida mia metto fede a susaggio per dai io è stato figliello alleato è roba che ha comprato questa yoga da città mercato alleato ma per matura che marino che non gioco che matura non che andiamo matura cazzo ma dai coccoli dai cazzo e quello che si riesce a male matura cazzo cosa cosa gioca a Vanessa cazzo è già per le linee cazzo no ma per questa mezzana muro con i questa ultima volta per questa mezzana muro non è tutta canta matura capito? Allora su colore si capita subito, capito? Se di pesce sa su colore di pesce tu lì. Io da chi la puglia fa una giovanossa quella, poi c'è roba Albania. Fino a matura, fino a minuzetta, fino a mediocre, non credo, però qui tutta campa, roba di. Roba ancora, non c'è roba nostra, per roba Albania. Vai da qui, sai, è tanta raggia di essere. Abbiamo, cura che fa, vabbè. Sai, pulita, ma te ci vai, magari noi sapevo che c'è la nostra, però. Beh, c'è la pulita pure, questa ultima la nostra, ragazzi, lui è buona metà. Però c'è la botta si capita pure, è l'anza, la mannuta, ragazzi. Ma c'è la botta, ma c'è una bella matura, bella piena, che è un buon, capito? Era per prendere a te chiro su chilo, io mare. Diceva che batto che me la scelta la yoghia, tutta tanta roba di sopra, e magari la vendita, però poi me ne ho più la virus, per andare che vedi quella vera come ti ha punato te, compreso, la Albania, perché inoltre che diventa la vendita, roba, è da che non è roba nostra, infatti che è tornato nostra, poi non ho più la virus. sarebbe se no si ricoprisse un cappellacuno e ricarica la che non torni giù, ragazzi. Infatti, come te lo sa, vai a dare via l'entrata, vai a Maddalena, e arrivi con su una paranza qui, tranquillina. La via, alla via, attaccato una guerra. Ma che faccio cantare da un'altra, faccio cantare lì, ma su cambia pure mi dà. Sono una pesarina, facciamo una cosa, la cosa per rimbalzare di fianco. Sono una che non rimbalza, dai, come te non rimbalza? Ha di puntare solo rimbalzo. Ma che io ribalto? No, no, si ribalta di fianco, tutto andrà bene. Se poi ribattendo di punta, quando non se ne compro. Si la carica attorno, cazzo la ribalta, Giammari, si la pinnetta, cazzo. Cazzo, tre carrozzate lì, ma pare carricati le baidicche. Buona vita, insomma, devo usare una vita, bisogna essere via. Salina, vedi cosa salina devo dare, carricare dei continenti, compreso. Cazzo, la sparanza, sentarmi commentare una che ne giochiata. Cazzo, con la palestra di un maricato, faria che se hanno giochiato non potrei contare le cose. Cazzo, paglia tutti i 20 centimetri da giocazione, cazzo, che non vai a linna. Voglio abbatto fu caso, cazzo, fatto la lettiera, metta la gaia, otta canta, assumi da futuro, poi la fai sì, così, otta canta bene si impiava, non preso, te non passai manco lo vileare. E poi ribaltai con de bianco, no, la credo, no, se ribalta de bianco, andrà bene, di punta appunto no. Era che io ribaltava della carica a torre. Ribaltato, cazzo, perché non montano le cose, le carrette delle cose, cazzo, a poi carregati le bei paesi che impresse pure. Era cucciata che... Sì, ho detto 20 volte andiamo a mangiare. Mi ha avuto in quel cazzo di segni, lui, mi dà da madrugando, ogni lunedì. Ogni lungo passa, anda che era lì, e ci mi dà sta seminea pure, e ci locale. E io ormai salita, io ormai sono qua, spazio a fottere, compreso? No. Vedo se viene al supermercato, via, vedendo su pellet, a 6 euro mi dà pure io mare, dico su bianco, cazzo, di abbette bianco. Ehi, no, non mi dia il questo nostro, questo marrone appoleava, vero? A me mi ripeto, me ne è andato, chissà cosa, regalato, però non paghiamo a cubiamma, capito, i casi a pago, i casi a paga ma stessi. E tanto mi ha dato un che però era che guccio, qualche tipo di se lo vedeva. Ah, proprio là qui tu questa cosa qui di sappiamo più su più manna più si cadia, capito? E casa parole di più devo sabbiare, che deve delle se io volevo andare nell'altro maestello, no, devo sabbiare bianca, invece come non la devo più bianca, lei usa i sorelle come e che mezzo su me, è tutta un'altra cosa, Oh, uso sacco qui in Bahia, della sua miscela come, uso bianco, uso marrone, capito? Mi la mettavo questo mare su bianco, però non la riuso. E la pago pago lei l'offerta, capito? Però non c'è da dire che altro pago, no? Sì, a me la sono andata, a lì che c'è canto il sino che mi danno rampa sacco, so, rampa sacco, abbette, faggio e abbette, canto quasi 600 euro mi chiedete, e vado, ma te ne dico. Mi ha fumato un pago, un appoliato come è, che come paghi bisogna a tornare in sacco cioè, e a portarci sì, un tranquillo, capito? E cioè, fritto, mi come le va a tendere, che ha cominciato a fare il fischietto. Come la tendo, fino a mezza sardegna e mezza, a sardegna e mezza è chiuso e la voce ci ha bevuto tanto stanotte. Se non devi capire gli hai caldi né a voglia. Però lei ha passato questa linna, che ha messo un carro proprio di riposta, dai guzzo. Se lei ne ha questo tronchetto le abbette, e me non si può pisare, io mi troppo caso qua. Questa imbarcatura è caldo, ma non ci vale canna, è caldo. Ma questa pure è caldo in me, la mettono. Ehi, è mio. c'è paura, uso, e lo metto i casi bene, e a te io credo. Però ancora più che io non mi dà, te se fa uno o a due, capito? Non lo devo pure consolare, faccio fa bene tutto, ma perché no che non si muove, ma pure respirare. Mi sono guido, mi vedo tutto quanto su, mi sono di fare una televisione, mi vedo tutto quanto suerato, se non si cucina la bestia, se ne guarda tutto il giorno da sua camera, come se entraissi qua, se ne su, un po' di aria a casa, ma fa troppo caldo qua a casa, e tanto ogni tanto che mi scusate, sono piccolo, hai caldo, roba ricca hai caldo, ma che vuole cosa fricca, io marito. Volevo una cosa fresca per caldo, no? Oh, i Tony, un po' di una fresca, no, mi caldo nulla. Oh, scusa, ma che fuma e basta, là. Mi è linda sì, cattore biele, lì da ora vuoi cadere. Se non è che sa perché, allora noi a... Quando mi hai fatto uno documentario di questa linea di chessa, che cazzo ne canti trucco e cose, io marica. L'hai fatto, sì, che passi il rebona, non c'è né punto né nuca. Vedo un bilancio che mi ha tirato quanto si erra. Con un caso che vieni a demorre, se fattene fritto me, la sentia ore mezzodì, sa una, la sentia. La sentia poi, non so, voglia più via, per tutto via. Sa che se me la so se i casi di Leonardo che c'è su, i calina, i casi su via, i casi su picco, però che sa che se io marino bintana, una braia ia cazzo. Ma infatti, mezzo 30 anni fa che è più su, aspetta, lei con le sia uno, le mortificare, che andaia là, hai usato anche tutto il mazzo di chiesa, con due pezzi mazzo di chiesa non lo si vede, non mi sa segare due a bocca a roba solda e tutta la cazza, questa raghina a me, ogni raghina che cazzo ti va lunga, poverino che tutti si chiu che sono venne, o che deve usare, se che ne muovende il paciente, questo marramicco cazzo, e ha fatto, sa che ha fatto, no, tu andi a faccia la volta. Cazzo, è arrasse capone bello, Tonini, aspetta che... che quelli che c'è, gli altri fa che Matti si usa però come si sa in taghezza. E come ci sono fatto? Che Matti si cosa a Torino? Quello questo puro qua. E poi è un cammino, non si voglia mai passare questo cammino io mai. Ogni canto dai che essa, ma bella mi, di ponte corti del cazzo, ma più tu hai strada, ma più ti la serra. Mi la paghia 40 linna russa. Mi dava chi a fascia e mi entra pubblicato attaccato in moto e mi sono lasciato più di 3 ore a carrere di linna, poi me l'ha fatta che avevi fricca attaccato a piccolo per la poi la sempre si stufa attaccato appena sentata cazzo. E di ogni tanto attacca la puglia che mi viene musicata questa attaccato a bella cicca cazzo. Ah, sentite, io maricato, un bombo, un caso che mi dà da morre, cazzo. E poi usare subito perché sei orzoso, hai capito? E qui sei a casa. Sì. Ma te se già so io che andava già lì nona scusa ma se cacchiotte non lo sa ciò fare ma poi vai dieci uno molto si narra che i gusti se lo sicchiano a tenere e fare fumo solo di carne capito? Chi è che vuole entrare? Che parte che vuole entrare? Non fa niente giusto, però vi attacchiamo a favore del suo cammino, non ha che non spiegare di che cosa non ha che non rafforzare via un meno. Dimentichi. Perché l'ha popolito il suo cammino, e te che l'hai chiuso, ah, perché l'ha popolito. E infatti, poi non ha che non più un attimo, spiegare di che cosa non ha che non rafforzare la mina. E va bene, secondo te vai da un taglio e vai, un preso, e fai fricca, visto magari questi mente che ti piace qua, poi io sul saglio mi affari, sono stata la quasi una seconda. Ma è c'è la vita? Il suo padrone, uso il mezzato, il suo padrone mi l'ha andato, ma è stata faccio manco mi volevo questo cammino, no? Ma se vi lascio andare, io mari, fai perché per un cammino di cosa, no? Tu gli canti, no, che è questa, ma tanto la coscia, amica, tanto la coscia, no? Addirittura, e i due figli? In pilota di due, guardando, come hai fatto, non ho lasciato, ho fatto, non gli canti, trunco del braccio, io Maria, cazzo, lucci, lungo, batto un metro, so. Se diametro non tiene la romena, si picchia la sua manca, con un metro e mezzo. Cazzo, guarda questa motosega, cazzo, manca da qua e tale, io Maria. Sei come lì, se ne c'è papà con Tonino. Poi salizza, e faccia, su un bacchetto vai fuori. Poi se va da un'altra, caccia, apri un bacchetto, articola pieno di linea, vai fuori, che è tutta linea che non serve, però se la fai pagare cara, ma la giorno. Sì, non è che linea che se no, fai un maricuto se... Come te lo lascia, cazzo, si va che la fumo. Io abbaia un tronco di tarde di chicco che ne ha picato dai... dai Cesavira, ne ha picato. E lo ha pensato io marino, mi ha pensato appena appena, poi perché lui ce l'ha uguale. E l'ha pepaccato con saccotta. Posso immaginare, Tony, sai che mi metto chi ha tenuto il cupo, come se il cazzo la mette per il cupo, dai, un attimino. Aspetta, ok. Ha fatto un mandato a quattro, Grazie, buoni, si vuole manicare bene, però mi capparo per te, adesso tu volato. Se ti lascia la maiala, c'è apposta, ti posso immaginare tu lì. E tu si chivo, che non la rapi in affiata. Sei troppo sicco sul rino. Però mi pio, così che non posso innaffiare e la cosa sta la male, come a cada madura bene, a cogliere il bicchiere di pumeta, capito? E dopo ho fatto che cominciare a cominciare a vestire su gli studiore, bella beffa mi caccia. Io mi piaccio ma a gennaio a cominciare a bere su io. Invece come? No, se vinta a me, questa pure che mi ha fatto cambiare, come se ne lo vedo io Maria, a Cusco, che mi romanti come se c'è buono, poi c'è. Ah, lo vuoi come sta ancora noi se noi c'è Cusco che buono va a suo mese di giugno. Però se lo vedi che lo vorrei mi romantico. C'è un piacere un po' marogno, capito? Io ce ne dunque, no, è difficile, capito, le domande. Tu qualcuno la mandi, perché no, non è che le possiamo mandare bella. Ah, sto butta tu lì. Io fai la sto butta e ti vuoi fare la mia, se stai tutto un tarazzo o no? No, è mezzano, capito, vino a mezza, ma è tutto, la cosa non è bella fricca, è gialla, capito, il carattere muro è giallo, un colore strano, proprio dai sassiccagna, capito? Lui da sabbia da capaccio l'anno passato e da sabbia da bruviata, capito? E la cazzo da bruviata la paia che lo fare nella mia. A mia no, mi sono rimane ma è bruviato un altro. Ma qui l'uomo è tornato in sabbicina, sa cosa se ha separato, beh, fuori meta e già bina separato meta. No, io prima di io era stato una moto zappata io mari. Ho trovato la roba, no? L'acqua baciata per grado, la foto zappa, adesso volava ancora degli uso, ma ha piaciuto qua, di questo gatto, soffre bianco, maduro, russo, gatto, sono a casa con una maglietta, cazzo, sa che c'è tutto io Maria. E a salati te li guardi. E questo non so male, si attacca la saraina, io Maria, e piga della cancra, là. Compreso qua. Io su, quando mano a mano che la ciappaia, che le uvidia, le ha due, le cazzettato, cazzo. La posso fare chi la roccia, dove è morto no? Leo, io mi come se noi, ho io a tappe di chi, compreso, di chi se la conca. Se vuoi sentire uno piatto, ho io a sole. Ma è una prefigo, guarda, c'è la frigo del guadire, bella, bisogna poter appare il vivo, tu lì, guarda. Un anno, chi sa che mi ha fatto questa, fresco, fresco mio, da voi a stato l'anno, ha cominciato a vestire questa frigo, i suoi, questa cosa, atta, a fa un caso ma dico un filometro in questa pure loro, e poi c'è stata la china che mi fa la ia, sono a parare e appena tolta questa volta i sapiti, sto attaccando la maiata e c'è si casavo. Ma se è quello che come c'è malano, una chi ha salvino, una chi no, lo bandea su un giarrone, no? E a più fossato lì, ma se non giù via smacco una barantina di terrone se sutta cazzo. Sotto sarei ragazzi, tu sempre traina, e sta dico, tu cavolo non ti vuoi tutto lì. Appunto che Gianni Cane, ma io non so, uno fiore di questo, non so che tipo la bramma, no? Siete diventato mai pure. Ma io mi lo vado a fare la fama, non vedere, hai cuccia appunto che sono là, cazzo. Io lo so, io Maria non so, lui che ha fatto un braccio, lui. Io lo so, era un braccio maduro, quindi direi che poi ha preso una giunta di sale in ogni odale. E in giro di 3-4 mesi, Gian Maria, ma questa cosa non si sa. Ma è un bacio tronco, cazzo, che fa da fumo. Io sono stato. l'avvocato del sesso. Capita, io a pago di questo sose bianco, che rimane che c'è raichina. Tutto quanti mi ha calamaiato qui, ha voleato un piatto. Quando non dare il posto intro, poi ha voleato, ma io non si come n'ha fatta. E poi se n'ha fatta, io mi ha sai come non te l'ha cancarato. Ma, gli pare il suo tipo del insetto, mi a me ragazzi, a voi per cucinare un certo insetto, chi si fa che è sunito in tessutronco, no? Ah, va che se mette a tre, si è fatto mettere de camino in tessutronco, no? E tu hai osso in terra, a ciappa, su tanto c'è segatura, no? Ammontonata. Da la linfa che si succa e che va da terra da voi, no? Attacca a botte la superferro, io chiedo superferro, metto a mettere più ferro in droga, la mette non in luogo, o lo vorremmo, cazzo. No, Dio, quando è caio, Mari, Leo, lo deve segnare, ho più pieno di cosa che non te ne già sai pure, e a intro, e appoggio che a Baia una di e uno bucco io marì, in dello tronco, cazzo si è maturo, senza caso vi rubero, non so che è sempre valente, sempre valente, sempre valente, lei ha fatto, hai sette, ha fatto, invece di, Leo è, dice che non va che una fattalina, ha fatto tanta più, era messa dentro il suo bucco, e poi ha tappato, e l'ha lasciato una vita, dai, io sul tronco, li pacco, cazzo, ogni campo di serrone manno io mi ha cancarato l'ha cancarato ma faccio il setto che si succa salimpa e sapore da voi muore e gai e gai canto mi la ficca a me mi ha pure sai che cazzo la ma che di frutta devo prima che c'è tutto ciò che per questa frutta baia. Certo, ma è tutto fatto una come, una cosa strana e un sicchio, cazzo. Oh, già bisogno rimasto già, però me ne si com'è da tu ieri. E Zaccaria si è fatta la tessiosa, si è tutto sarlato a Torino, tutto sarlato a parire la, usare lo suo mobile a parire la. Tutto a bocchietto, veramente che non mi saliva, lo batto lì pagando sapore di sicca. Mi si crea cariato, infatti, non mi l'ha potuto, si può morire, si è piantato tre piatti, speriamo che vi dure. Ma mi la sappo già mi girata da tre vie, e vediamo su, vediamo che non si attacca, questa colla, muro, si no, questa colla si sicca. Oh, ma è questo rosso bianco, io mare che danno c'è la pianta, non penso. A molto male gli tocca su coro, cazzo, io comincio a badalare, a mandicare, e c'è sempre, ma io sono niente, cazzo, ma russo e lungo, cazzo. Io piace molto seguire tutto che balla, cazzo. Ma che si è tolto mentre l'ha pucato da io, l'ha baciato appena, e lui lì a biancunito, dai, fai no, quelle, lei ha detto entro un piatto, lei ha detto entro un piatto con questa plastica. C'è stata la con che posso io solo, poi a cancara. Ah, Ruccio, che fa che tu mi cucci e vuoi a mandicare da voi? Voi? Cazzo, hai bucato un ritto, cazzo, ho bucato. Posso mare e lo mandica, cazzo. L'ha pulito quando si lo mandichendo, si lo fidi, cazzo. Così, potrà dire l'ha pulito, questo ritto, di su. Noi quando hanno piccato, cazzo, non l'ha fatto di lungo. Cianterio se vi abbagliano e vi abbagliano non fai votare, cazzo, cazzo, musso. No, l'abbia vieni di aduno sempre, no? Però che voglio ammanticare su quella sa su manica asciugare, e già crocchetta, no? Cazzo, se c'è a bocca, andai a cazzo, guarda, non mandica io magari di questa cosa, e c'è per sempre sul piatto buio. Ecco fatto apposta un sero sopra la giosso, ora mi si butto, ha fatto, e sa, mi ha detto, siamo qua a battere già sul motore, perché di piazzere sul motore per sabato. Di che è da faccia più su ritmo, di che di questo piatto? Io pensavo un storico, uno spettacolo. E infatti l'ha fatto di raissa, la poi l'ha fatto tornare alla sala Iosso, non l'ha fatto di uso, però beh sempre, capito? Beh sempre uso ma la giusta. Ecco che come parlo sempre, poi la crocchetta a sabato, so, e a subiare i su, bene idea, avete, ormai c'è abituato. Ma come lo pesci, c'è un mare che fa tenere un po' fritto, compreso? Su, addio, sono bella, pesci. Ma su che ha fatto più devo il minore, no? Non sono passato su, non ha contato su fritto, la mostra su fritto, la mostra. Ci ho pensato mano, non ho pensato molto. Cazzo prima di io, cazzo, mi rende, cazzo, tutta la notte, cazzo, paia, se mi ha un mare con cui venuto, io cazzo, io cazzo, io cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, bianco pure, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, arriva con la mintra e mesi, mintra e mesi, da questo di vicino, ma te si capito? Pure lo dottore ha bisogno di gatti. Io andai a tappino una ossa, all'interno della Santa Teresa, in un universo, insomma, che sono un mucchino a Romeda, in un chimbo di Siro, Giammari. Cazzo mai andai a Ido Caiman? Lo carico in camion, lo carico. Fratello Dio, in sotto c'è il circolente, cazzo. Non ha potuto da bere più, cazzo. Evidentemente ha passato la sua cara già pesa in cala e invece da carrella magari con una peccata se l'ha pigliata. Manno, manno, io mari, manno, manno, manno. E dai, l'ha fatto un sbattato. Cazzo, infatti non sa male, non sa io. In una passaglia che lei faceva con la te. Ma il campagna ha bisogno, eh. Campagna ha bisogno, mi sono stata lungo e su Rizzo, beh, capito. Ma con io, eccetera, eccetera, capito? Animale binnato, come tu. No, da mia abbiamo detto a mandicare, per cui entra nei bici, capito? Vedi il fatto che ho fatto a mandicare, per cui mi dai a posa basso. E magari che appaccia pure sulla mare che mandaliccio, no? E sulla mandicaliccio ma te si muro, capito? Ma la fa ben dritta meglio a Marì, io non riesco a vedermi, che si può incanto su punto che vedermi serrato. E la pappa di dritta e la pappa di circolente di cui carrella e sopra e dopo la polia dove è la polia da su la polia da su c'è una circolente di su cazzo quella di campagna cazzo già che sa terra più muffida che la ia che la è molto zappata e di chi prende cazzo con cui viene tutto quanto che c'ha fai se non le caia ma tre patatie lui dice circolente quello la potrà da venire più e poi la mette in tana. Che difende, perché è ventanato dentro la cittuglia che baglia la secatura e cae, mi veno, e che vedi dentro? Però che muscio, sono fritto da muscio, che me lo reggio. Senti, si va a fare il ghiaccio e dire, chiaro, il fritto che sia. Ma non è che soffri il fritto me da pure su questo animale, capito? Se assolutamente viene e sono... Magari chi ci fai? Se ci passa con roccia, sa, a caccia, si ricuda le mie, oppure sono sotto il brio, si ricuda sotto il cuore del mio oro se sono male a me. Ma sono ritto io marino, non fa animale che l'intra, compreso. Ma fai questa forza, dice, come le trovate dal vittolare a... Come te la fai capire con questa parte, vuole nel vasto, cazzo, con la cacciappo, picodiana, esatto, che riene, però non lo lascia. infatti, che la sua sera da, e poi gli dritto, si appunta, questa zippina, ma la giusta, che... Arrazza animale, e voi busso, che... Se penso, se te lo fanno bucare, io so, un omaggio però. Sono con due cazzo a... Se capato il sciuffo, là. Insomma, che era il suo video, questo con cui non si mi ha due a chiamare. Oh, automatica? Se con cui è nudo, Posso mare, ma dica sai io che io ho maricato, ma dico qui. Io sono niente, sono libero, ho maricato tutto. Ma dica cosa sono di bianco, pure. Stavo tempo fa che mi hanno acciappato il telefurgone, l'unico canto fine del riso del torfone, che era finito che a fuori che lo primo che ne capi. Il sanape lo sono acciappato a Tonì. Cazzo le canto io che sono riso giugate, che mi entro sicuro di contravenzione mi giugate. Si deve fare con un ritto dentro la macchina. Oltre che la contravenzione si trova c'è una macchina pure. Sono un animale protetto io, certo. E come tu, forse sono rimasto un protetto io. Dice prima no, prima, oia. Certo. No, infatti. Ma è no che mi sai sotto a mie, mi batti per attrezzo, dottore. E sono i suoi intrecciotti pure, e su sempre maculete, pure sono minoreto, pure figlio, pure minoreto, cazzo. Ma non lo so più, sono minoreto, sono male del vissuto, sono tre, di due. E sta bene, due, non sta quelli qui su, con un micro della zucca, noi e altra cosa, capito? Io mi dico che sei sotto, io mare del come te la sa, sei andato a pensare ai caracci, papà, ma tu sei chiuso si chiuderò. Non dà appunto, io manco. Anche se è tosto, mi dai. Poi devi appoggiare del suo ritmo, il ritmo mi cade. E adesso ti ringiorno, a chi è l'ulassa? No, come ti ringiorno, Mario? Otto, ma è sornivoro, io, ma ornivoro, carnivoro, otto, ma... Altro, ma di casa colora, pure, si mantica. Oh, mamma mia, che è noi chi, E a sacolora lo persigli. Adesso che vicino, cazzo, sacolora si ritruca, no, quando erano musicare. Si serra di chiesa con questo vago veleno che chiude in barra. E tu vaghi, sa bene di... La canza da un mese, io mare, tattai la vaga di induoso. E se la manica tutta canza, perché ne vorrei a lui. Non è chi, Sì, il suo ritmo di cattolto, se c'è un sacolore, ma se me ne fa sacolore, appunto, cazzo. Tutto quanto lo cacciappa, dai, patrignole, catelana, sa, caramella, coccoide, tutto, gioca, coccoide, colora, soli, che se... Tutto quanto lo cacciappa, cioè, ma ricordo che sa brutta, appunto. Che sa brutta, sì. E la mia forse abitata in questo video per cui l'uomo no, bestato insomma e sarei qualche proprio malattico anzi c'è rabbia a meta e qualche proprio da meta su Mattessi così che in terra e alla Maria Recuccio Arazzo ci vende qualche pro Arazzo non è manica molto male però non è pure la manica se mi dice che mi dà meglio qua che si imbruci in assura carica della satana amico preso Oh, guarda, che ha preso fatto tutti i terra perché noi ne comandiamo un paio, non ho fatto così qui a Cradie, la musica passa ancora in crua, la musica noi in terrazzo, in trovaccessa, ancora in crua, e accanto bella cura perché l'hai buttata, e la cappotta è appunto bella, matura, è ancora in crua. Un anno via con Babbo, che su mese di... Questo periodo si avvira bianca, io mario, e poi c'è pure il figlio di una parente, no? Sai di lui, da lei, e dopo lei ha comprato tutto su lui. Attaccato di noi su, gli fa un fioritto, io mario, imbroscinato, di sopra la via, no? Cazzo, si è girato pure, e se ne era attaccato per essere, assù. Cazzo, mi fa sede, pensa a me, cappaglio, lei ha fatto la pizza, no? Lui è buono a mandicare. Cazzo, parleato quella da cotto. Cazzo per sai, la sua manca sua cosa, non voglio chiedere che mari. Ti darò che fin manno. L'ha rosciato, ma tutto quanto bene pulito, lava, l'ha cotto in forno. Io non domani che fa bulacca, perché meno se la tena che fa, se paga la sorina, compreso? Di sera sua la buscita di sera. Sì, ha fatto il resto, cazzo, la proposta vuol dire che ho mai detto quanto, quello che mi ha negato. Sapevo la che mi chiedeva che male, poi male poi anche non domandica. tutto raccolto, io me l'ho comandicato e ti sono stato a una mezz'ora, sono andato a copisciare tranquillo, non ho fatto nulla. Quando si è bene pulito e mandicato a fino secco, non ti paghi nulla. Fumato questa canna romanica da fino fricco, cazzo, che è pericoloso, di serra te lo per la paga da pisciare. E io pure a pizza su qua, e a fino secco ci vuole mandicare, ma è fabbrica, no? Io non se l'ho mandicato, no, se per cui non mi ho fatto nulla. Però non devi mandicare gli tori, ecco, no, come non devi mandicare? Perché poi mi fa che pena, anzi quando lo vedo che posso mandicare se è possibile. Ma no, andiamo a dire no, non è possibile, no. Né un ritto e né tutto, no, no. Ma bisogna che la Bibbia che la lo sai in campagna, capito? Però lì che fai sul suo? E forse da che va la. Si che va lei da su paio su buco, su casarette mi. Catemi sarette se quasi un bravo su caderno. E pure perché su buco cadere, da una campagna a stattera. Capito, ma che tonto lo fa che tu? Ti ha sarrangia dai campare io Maria. No, ma la sorte, da quello fa un buco di stato, la saia deve mitriare che sia, l'hai capito? Vai anche sul lavaglio, va che è, e su lì si lo faccio si contro. Sì, questo ma la sorte, si fa che fine, si fa che fine, va a fare il suo buco di stretto puro. Questo fa sempre niente lui, a mi arrivare, si fa che lungo si fa. Sono un animale bello. Su, vediamo a sapere che vedendo i documentari, guarda, di questo suo ritto, cazzo. Allora se mi dice che rende questa colora, io Maria, cazzo. Tutto quanto dove c'è appaiono di migliaia, tutto quanto dove c'è appaiono. No, sta mandicando con lei a piano piano, c'è questa caia di satana. Cazzo, e fidi all'attente, cazzo. Questo suo ritto minorello, fuori che appaiono. Ah, ma la mia. Dottore, il minore si è innappuito. Ma la mia pure. Forse vicino da tu. Ma tu manno, ma manno per Ottoni, Ma a me questo pesa da bene con 20 kg Ottoni, Ma perché il manno Ottoni? Maturo. Un blocchetto di sommanno qua, Quando ti innamora non sai che sono sicuro chi fa che beh, che da un sano non intende. Sì, chissà, quanto lo pare, infatti noi se chi lo sentimmo su, che ti riende, che sta passita e sarete, no? Da io sa sopra, su coppite e passita lì. Però li vogliono mandicare e lui dice, non ne hanno me. E poi mi sono minore pure, capito? Ogni tanto faccio sull'argomento, adesso sono buio, adesso magari si va male con questo animale, e adesso magari sono in mia ancora, capito? Se hanno gli angoli, io marino, non li ho fatto, cazzo. Dai minoretti, voi siete pensato mannizio, li venivo a mandicare, cazzo. Cazzo, si voleva fare, si voleva buttare, si voleva melone, cazzo. Voi si voleva fare, si voleva fare. Ah, se la zetta è la nuova talare, la baita via, la rabbana. Fatti, come se ne faccia conca, le prendono subito che mosse la via. Questo è pista, la mosse la via, questo qua. Caro Greia, è come se... Ma Toni, mi devi passeggiare, dai, che minuto sono, Toni. Si direggia, diciamo, dai. Esatto, me. Avevo aspettato uovo, l'ho aspettato, non si sentiva che morì. Ok, d'accordo, allora tu dai, sentiamo, saluta il nome, vai. Alle prossime, se continua magari più tardi, dovrà una mezz'oretta, va bene? Va bene.